Vacanza di lago. Capitolo ottavo. Ormai Martin riusciva a rasserenarsi solo se proiettata nella svolta di quell'inversione. In assenza di quei progetti e di quei propositi liberatori, rimaneva ingoiata da quello strano senso di inquieto incanto e insidioso che le chiudeva d'improvviso gli occhi verso le poche luci serene della sua vita, invadendo il suo flebile contatto con il reale di atmosfere opprimenti e tenebrose. La pausa del pranzo ai corsi, squarciando di calura i giardini monastici isolati del vecchio castello, che favorivano nel loro riparo sicuro lo sgranarsi degli uccelli, dei passeriformi, delle varie specie di insettivori che cantavano a squarciagola dall'ombra dei rami delle querce, qualcuno in prossimità dei muretti più assolati. Gli strumenti a quell'ora tacevano, chiusi nel buio delle rispettive custodie. Pier era scomparso. Aveva pranzato lontano, in compagnia dei suoi colleghi. Edoardo intanto lo raggiunse, con quell'aria sicura e serafica che lo aveva contraddistinto fin dall'inizio della mattinata. Posso? Prego, prego, vieni pure. Aspetta che adesso ti faccio un po' di spazio. Sono da sola. Edoardo gli si sedette di fronte, sistemandosi bicchiere e posate che erano insieme sparpagliate ad un solo posto. Allora, con questo violino? Penso che questa giornata sia stata davvero decisiva. È un capitolo da chiudere ormai. Penso che ne avrete parlato abbastanza a lungo per ritenerla una soluzione definitiva, immagino, Martin. Adesso mi risulta tutto più chiaro e molto più semplice, credimi. Al limite potresti continuare a suonare lo stesso, un po' come faccio io, per sviluppare l'emisfero, senza grandi pretese artistiche, no? Non so nemmeno cosa sia questa specie di emisfero. Comunque al momento mi va bene così, credimi. Fleshing è stato grandissimo. Ha capito tutto di me. Gli è bastato così poco. Non ti ha spiazzato il sapere da un momento all'altro di dover cambiare strada? Così all'improvviso? Forse un po'. Esiste un vento strano che ci soffia addosso. All'improvviso ci porta in posti diversi da quelli immaginati. Che cosa vuoi dire? Che molto spesso è la vita a decidere per noi, anche se poi ci illudiamo di aver scelto noi. Forse lo facciamo un po' per consolarci. Sarà, forse sarà come dici tu, disse Martin. Dopo pranzo i ragazzi continuarono a parlare fuori, più vivi e più affettati di prima. Si guardarono, stavolta con più intensità. Edoardo le sorrideva appena, poi distogliendo lo sguardo verso i tornanti alberati, ancora ben visibili nei riflessi di luce, ben definiti dal punto esatto dove si trovavano. Sarebbe bello percorrere tutti i paesi in bicicletta. Che ne dici? Ci hai mai pensato? Disse Edoardo. Martin seguì con lo sguardo la direzione di luce del suo viso. A quell'ora le cose e le persone sembravano prese da un rallentamento che ne addolciva e ne confondeva di mollica i tratti del corpo da qualunque prospettiva li si guardasse. Il calore estivo creava iridescenze sul selciato d'avorio, mentre un'altra corriera blu, più impacciata e barcollante delle altre, si apprestava a raggiungere lo spiazzo ghiaioso antistante al castello. Lo dilagò di ombra. Non sarebbe una cattiva idea venirci in bici quassù, non credi? Perché? Tu hai ancora intenzione di ritornarci quassù? Può anche darsi, anche solo per raggiungere il mercato o i primi tratti abitati dopo la campagna, e poi in questo modo eviterei tutte le curve, nel senso che non le avvertirei più. Soffri macchina? È un po' la corriera che mi ha infastidito. E poi Fleshing è stato così chiaro. Avrei voglia di continuare a parlargli. I due si avviarono verso il sentiero che portava all'uscita. Sono uno psichiatra in erba, le disse Edoardo, se il termine può esserti esaustivo. Io sapevo di scrittori in erba. Questa mi suona nuova. In effetti, mi sento sempre un po' in crescita, e soprattutto con i misteri della mente, per cui sarò sempre contento di definirmi come qualcuno che ancora deve spuntare, ancora potenziale, un tipo alla ricerca. Sai che vorrei rimanere sempre così? Bella come idea, però. Forse anche un po' troppo comoda. Probabile che lo sia, Martin. Tra l'altro sto scrivendo tanto in questo periodo e poi i pochi pazienti che mi ritrovo meritano da parte mia tutte le risorse ancora disponibili, tutte le risorse umane, spirituali. Sai che mi affascina tutto questo? È una cosa così strana, segreta, che mi fa pensare tanto. Parlare della psichiatria, forse? Non lo so, è come se questo mondo così ombrato dell'introspezione avessi poi degli strati di luce imprevisti che ti facciano capire un po' meglio che fine si fa. Come una rete sotto gli acrobati, capisci? Guarda che è proprio così. Almeno nel mio caso, il campo che forse mi ha dato più gioie e soddisfazioni, in assoluto. Nonostante tutto, poi i malati di mente sono anche un po' acrobati, è vero. Sai che hai proprio ragione. A volte sembrano addirittura più vivi. Se almeno fossero appena più felici. Martino lo fissò. E gli sorrise con una grande malinconia, mentre il sole si allontanava, lasciandolo in un primo sottile solco di ombre, quasi a tempo con il rallentamento delle loro parole. Dopo la discesa verso il cancello e prima di rigirare per tornare indietro, Martino incrociò di nuovo Pierre in compagnia di un altro collega di corso. Eccolo, si è rifatto vivo, disse Edoardo. È un amico di vecchia data. Da quando vengo qui sul lago lo incontro spesso, diciamo un'amicizia di famiglia. Allora laggiù siete tutti liberi, ben sganciati dai genitori. Immagino quanta libertà in più. Non credere, Edoardo, a volte qui diventa tutto più difficile. I nonni si stanno facendo sempre più anziani e sempre più ansiosi. Pier proseguì, fingendo di non averli visti e continuando a chiacchierare con il suo compagno di corso. Martino e Edoardo allora si fecero più vicini. Allora che cosa si fa? Io penso di andare via tra un po'. È inutile che rimanga ancora qui. Tu invece dov'è che abiti? A San Michele, il borgo più piccolo dopo la prima vallata, scendendo. Lì ho ereditato una piccola casa che apparteneva alla sorella di mamma e che mi è stata donata come unico nipote. Questa in effetti è la mia unica vera vacanza. Nei mesi più caldi avrò degli impegni in città, per cui ne approfitto per respirare ancora l'ultima aria dei corsi, per salutare Flushing e poi anche per riposarmi. Come ci arrivi fin qui? Con la corriera, ma qualche volta anche con la bicicletta. Allora ci si può davvero arrivare in bici? Sai che non lo credevo. Basta conoscere il tratto più interno, quello della mulattiera, e impararne nel tempo i segreti, qualche scorciatoia. Ci vuole solo un po' di pratica. Sai che mi tenta parecchio questa idea. Mi accompagneresti a prenderne una? Adesso dovrei pensare soltanto dove portarti. Una bicicletta, aspetta, aspetta. Forse dovrebbe essercene una che potrebbe fare al tuo caso. L'ho vista la settimana scorsa, è una bicicletta grigia e bianca. Pensa, l'ho toccata con le chiavi e sembra quasi che risuoni. È fatta con il titanio. Pensi che possa andare bene per me una bicicletta al titanio? Quello che conta è la sua poesia nei disegni, nel suo silenzio, nella sua leggerezza. La bici è un po' una poesia e tutti i ciclisti sono un po' poeti delle loro strade. Io l'ho scoperta da ragazzino e ancora mi emoziona appena al mattino accosto le mani al freddo di Manubrio con il fumo che mi esce dalla bocca. Se ti ci appassioni davvero, cambi completamente il rapporto con l'ambiente, con le tue strade e con la tua vita. E poi qui, in questi posti così profondi di boschi, di tranquillità, di campi, è meraviglioso. Potrei insegnarti tantissimi percorsi alternativi e poi la bicicletta ti libera davvero un mondo. Peccato che rimarrò qui ancora per poco. Sarebbe stato così bello. Potremmo andare a vedere se è ancora rimasta al negozio. Che ne dici? Penso di sì. Tanto io partirei all'inizio della settimana entrante. E allora? Abbiamo davvero una vita. Io pensavo quasi che partissi domani, da come parlavi. Allora dobbiamo darci un appuntamento, giusto? Dunque, Martino, vediamo un po'. Potrei raggiungerti in bici alla fermata della corriera sul lago, quella oltre le casine del sole. Le presenti? Domani mattina, per esempio, verso le 9. Perfetto, le 9 va benissimo per me. Lascerei la bici nei paraggi e poi si andrebbe a piedi al negozio. Martina restò per un attimo il suo entusiasmo e abbassò gli occhi al suolo. Ebbe un pensiero fosco e ombroso che sembrò togliere per un attimo il respiro. Poi si sentì chiamare da lontano. Era Pierre. Tra mezz'ora alla fermata, non tardare, chiaro? Martini rispose con il gesto ampio di un braccio, come conferma. Poi ritornò ad Edoardo. che stava guardando il cielo. Domani credo che pioverà, peccato. La corriera sarebbe partita puntuale. Martin rimase ancora un po' con Edoardo, poi raggiunse Pierre in volo anticipo, cogliendo l'occasione di salutare il professor Fleshing. Lo raggiunse nella sua aula, che stavolta trovò appena socchiusa e senza musica dal suo interno. Bussò piano, accompagnando la porta lentamente con una mano. Chiedo scusa, è permesso? Chi ti ha detto di entrare? Io avrei bussato solo per salutarla. Sono Martina, non si ricorda? La ragazza di poco fa. Cosa diavolo vuoi ancora adesso? E poi tu vorresti farmi credere che avessi davvero bussato alla porta? Fleshing aveva uno sguardo diverso, rosso di fuoco e di rabbia. Era da solo nell'aula e stava sorreggendo un violino dal lato contrario, con il riccio che guardava in giù e gli occhi adesso inespressivi, perduti di ghiaccio nel vuoto. Cosa cerchi ancora? Martin rimase colpita da quella freddezza raggelante, improvvisa, pensando che forse avrebbe dovuto bussare meno forte prima di aprire, ma era sicuro di aver bussato. Non riusciva più a capire, era solo confusa, tremante. Ritorna fuori e ribussa, capito? Martina seguì il comando, richiuse la porta e poi si fermò. Tirò un paio di respiri e riprese a bussare, con degli intocchi secchi e decisi stavolta. Dall'altra parte, il silenzio. Ribussò ancora Martina, cercando di scandire al meglio l'intocco sottile delle sue dita, come sillabe tremanti sul legno massiccio della porta. Non sentì più alcuna voce. Era tentata di bussare ancora, avvolta nell'ansia, con più insistenza, quando alle sue spalle ricomparve di colpo il professore, sorridente e sereno come sempre. Allora, signorina, è ancora qui? Oggi allora non se ne vuole proprio andare, vero? Martina riuscì a contenere l'agitazione furiosa che la avvolse, cominciò a pervadere tutto il corpo. Fu costretta a scappare senza nemmeno più salutarlo, con gli occhi concentrati nel cupo improvviso della sua corsa sfrenata. Raggiunse l'ingresso con il cuore in gola, ormai sfinita, stravolta. Un gruppo di ragazzi che si stavano salutando mentre Martin li travolse, facendosi spazio a fatica verso una zona ampia di cielo dove potesse riprendere finalmente a respirare. Che modi sono? Martin avanzava sempre più veloce verso la discesa che portava all'uscita, scivolando diverse volte sul pietrisco, rialzandosi a fatica, ancora oppressa, ancora spaventata da quell'immagine, quando intravide la portiera dell'autobus aperta, in attesa che gli ultimi passeggeri prendessero posto. Pierre non era ancora salito. Martin si sganciò disperata, si scagliò sull'ultimo sedile della fila di destra, nascosta da tutti e con il viso pallido e sudato. Si accartocciò con le ginocchia allo sterno, le mani strette sugli occhi. Pierre salì poco dopo, a motore già acceso. Le si sedette accanto. Dici davvero? Hai deciso sul serio di lasciare la musica? Ho parlato a lungo, non ha senso viversela così, senza respiro. E poi adesso non ho voglia di parlarne, ti prego. Ma tutta la vita è una strada lunga e difficile. A questo punto dovresti rinunciare a tutto, non esistono cose facili o certezze, Martina. No, non è vero, ci saranno invece milioni di altre cose che potranno consentirmi di esprimermi. Ma adesso devo solo capire quali. Ho bisogno di riposo, ti prego. E io che pensavo che questo colloquio ti avrebbe aperto delle possibilità, delle nuove strade. E invece, Pierre, è andata così. Ma quello che Fleshing mi ha detto è stato comunque determinante. Io ne sono felice. Questa rinuncia, in fondo, è solo un nuovo inizio. E poi lo sapevamo tutti che continuando con questo ritmo non avrei concluso un granché con il violino. E poi eri proprio tu il primo a dirmelo, non ti ricordi? Sarà, fa un po' come vuoi, Martin. L'importante è che tu poi non te ne penta di queste scelte. E poi, sai, il fatto che tu non suonerai più è come se mi mettessi addosso una strana tristezza. Cambieranno tante cose fra di noi, anche il mio modo di scherzare con te. È come se adesso ti vedessi già mutilata di qualcosa, all'improvviso. La corriera scendeva lenta lungo i tornanti e assorbiva i tratti luminosi di quel pomeriggio, lasciando ancora illuminate ampie zone di strade, impolverate da quel sole ancora deciso e stabile di luce, che spaventava gli ultimi cani, stanchi e assonnati della lunga calura estiva. Martina aveva un occhio chiuso dal riflesso di quei raggi del sole, e con l'altro guardava Pierre, che stava fermo ad ascoltarlo, con le mani nei capelli, mossi dal vento, accelerato dalla vicinanza del finestrino aperto. I ragazzi ritornarono in breve tempo al lago. Il percorso di ritorno aveva quasi dimezzato i tempi di marcia dell'andata. Al suo arrivo al lago, Martin trovò il nonno che era fuori, seduto a prendere ancora l'ultimo sole sulle grosse braccia. Appena la vide, si alzò di scatto, puntandosi il taglio obliquo di una mano sulla fronte, per essere certo che fosse proprio Martina a venirgli incontro. Una volta accertatosene, la chiamò con voce robusta, schiarendosi nel volto in un'espressione ampia di serenità. «Colombina, finalmente!» «Rieccomi tra voi», gli disse, abbracciandolo forte, dopo essersi posata sulle sue grandi ginocchia. «Mi siete mancati, sai? Oh, per una mattinata e mezzo. Allora dobbiamo preoccuparci. Non staremo diventando troppo importanti per te? È solo che oggi è stato un giorno particolare. Poi ti racconterò tutto per bene. Mi auguro che tu abbia delle buone notizie da darci. Almeno questo. Ho delle notizie molto importanti, questo è sicuro. Io penso che siano fondamentali per la mia vita». In quel momento venne fuori anche la nonna Teresa, che avendo sentito le voci dall'interno della sua cucina affumicata, uscì fuori, con uno strofinaccio umido appena piegato tra le mani. Aveva i capelli raccolti ed il volto calmo e riposato dalla particolare dolcezza del clima di quel giorno. «Anche noi avremo qualcosa di molto importante da dirti, sai?» disse rivolta a Martin e senza nemmeno salutarla, dimostrando di aver ascoltato anche dall'interno le sue parole. «Allora, questo è un giorno doppiamente importante», disse il nonno, guardandosela bene nella profondità indifesa del viso, mentre lei rimaneva sulle ginocchia, calma come un passero di montagna, a stringergli quel collo taurino a due mani, con le sue due piccole mani intrecciate e nervose. «Allora, comincio io», disse Martin. Raccontare di quella mattinata, di quell'incontro, delle sue parole con il maestro Flushing. E poi vedete, ero così sorpresa, anche perché non pensavo potessero sussistere tante qualità umane, tutte così importanti, in una stessa persona. E non sto esagerando, comunque con il violino è finita, ecco, è questo che volevo dire. Che cosa stai dicendo? È che non è quella la mia strada. Adesso l'ho detta, sono libera, e l'ho scoperta attraverso Flushing. Il nonno smise all'improvviso di dondolarsi sulla sedia. La nonna impallidì, adombrandosi come la valle sul lungolago poco prima di un tremendo temporale invernale. La signora Teresa rimase ferma per un po'. Il nonno, con un gesto secco, sollecitò la ragazza a scendere dalle ginocchia, ormai diventate rigide e terribilmente irrequiete e inospitali. Si allontanò con passo spedito verso il primo corridoio di alberi ormai ventilati dai primi getti serali, che si facevano più intensi e più vicini. La nonna rientrò nello stesso silenzio cupo del marito, in un gioco simmetrico e perfetto di reazioni cupe, di ritrosie. La giornata cominciava a sfocare in una lentezza degli animi poco rassicurante, scivolando sulle ultime tinte di cera tiepida che si formavano per poi disciogliersi ancora più deboli sulla superficie dell'acqua del lago. Martina si sentì profondamente colpevole e cominciò a camminare forte, avanti e poi indietro, andando e poi ritornando, con il passo sempre più pesante. Si allontanò dall'ingresso e raggiunse la freschezza ventosa delle sponde più orientali del lago, in solitudine, come per cercare quel rifugio improvviso, disperato, improbabile, una sorta di riparo, di antidoto naturale a cielo aperto, che le desse ancora più aria nel petto ansimante e soffocato. Guardava il cielo arrossarsi, come le sue ferite, afflitta da un'ansia diversa, invasiva, che le si attorcigliava dentro la gola come il fil di ferro intrecciato dal nonno Alfio per ottimizzare una recensione. Proseguì ancora oltre, cercando di ripercorrere mentalmente tutti i passi della sua rinuncia e misurandoli in relazione a tutto quello che stavano provocando nei nonni e allo stesso tempo dentro di sé, di gioia e di paura. E la sera calava ancora su quei suoi pensieri difficili, incontrollabili, con una dolcezza insolita, sfuggente, facendole dilatare la sequenza dei passi e rallentare quelle gambe così magre. Martin non si decideva ancora a ritornare indietro, forse perché non aveva il coraggio, ma sentiva comunque di doversi spiegare a tutti i costi e doverli rendere prima o poi partecipi del suo momento di speranza e di grande dolore. All'improvviso, dalle ombre dei sentieri laterali che si facevano più fitti verso l'ultima striscia perlacea della campagna, una figura di donna vestita di nero, che si affrettava verso il lato delle prime case del centro antico, appena appena illuminate. un cesto di paglia che le penzolava da un braccio, piegato a cerchio lungo il suo cammino appena incurvato. Quella donna era avvolta in uno scialle scuro che si teneva ben stretto alle spalle con entrambe le mani. In lontananza si udivano i merli e qualche cornacchia che marcavano i rispettivi territori del loro ritorno. Prima di sera, con le piume veloci intonate alle tinte delle sue vesti lontane, dai colori grigio scuri luttuosi, Martin osservò quella figura che avanzava con gli occhi sbarrati. Poi cambiò subito di direzione e ritornò indietro. Quando poi varcò la soglia d'ingresso, la cena era appena servita.